Storie italiane. Riccioli d'oro e i tre orsi. C'era una volta Papà Orso, Mamma Orsa ed il piccolo orso, che vivevano in un piccolo cottage nella giungla. Lì vicino viveva una bambina di nome Riccioli d'oro insieme alla sua famiglia. Una mattina, Riccioli d'oro stava giocando e si addentrò nel fitto bosco. Quella mattina gli orsi cucinarono una buona zuppa. La zuppa era molto calda, così decisero di andare a fare una passeggiata nel bosco. Mentre si incamminava nel bosco, Riccioli d'oro si imbatté in una casa con una porta enorme. Lei era molto curiosa di entrare in quella casa. Si fece coraggio e bussò alla porta. Ciao! C'è nessuno? Nessuno rispose. Così decise di entrare in quella grande casa. Vide un tavolo. E sul tavolo c'erano tre ciotole di zuppa. Riccioli d'oro aveva fame. Che zuppa buona, che profumo invitante! Ne assaggerò un po'. Prese la prima grande ciotola e assaggiò la zuppa. Ah! Questa zuppa è troppo calda! Mi sono scottata la lingua! Così assaggiò la zuppa della seconda ciotola. Oh! Questa zuppa invece è troppo fredda! Decise di assaggiare l'ultima ciotola di zuppa. Questa zuppa è davvero perfetta! Dopo aver fatto colazione, Riccioli d'oro si sentiva un po' stanca. Così entrò nella sala, dove vide tre sedie. Riccioli d'oro si sedette sulla prima sedia per riposare i piedi. Questa sedia è troppo grande! Si sedette nella seconda sedia. Questa sedia è veramente grande! Provò a sedersi nell'ultima piccola sedia. Questa sedia invece è perfetta per me! Proprio mentre si sedette, ruppe la sedia e cadde a terra. Oh no! Riccioli d'oro era molto stanca. Non aveva un posto dove riposare, così decise di salire al piano superiore nella camera da letto. Si sdraiò sul primo letto. Questo è troppo grande per me. Decise di passare sul secondo letto. Questo è troppo morbido. Infine si stese sul terzo letto della camera. Questo è veramente perfetto. Mentre lei dormiva, i tre orsi rientrarono in casa. Qualcuno ha mangiato la mia zuppa! Ringhiò Papà Orso. Qualcuno ha mangiato anche la mia zuppa! Qualcuno ha mangiato tutta la mia zuppa! Adesso la ciotola è vuota! Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia! Qualcuno si è seduto sulla mia sedia e l'ha rotta in tanti piccoli pezzi! Gli orsi decisero di controllare la casa. Quando salirono al piano superiore in camera da letto, Papà Orso ringhiò. Qualcuno ha dormito nel mio grande letto! Qualcuno ha dormito anche nel mio letto! Qualcuno sta dormendo nel mio letto! È un essere umano! E lei è ancora qui sdraiata! Esclamò il piccolo orso spaventato. Appena i tre orsi si avvicinarono a lei, Riccioli d'oro si svegliò. Aiuto, aiuto! Si alzò di scatto e corse giù per le scale. aprì la porta, fuggì nella grande foresta e decise di non tornare mai più.